Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Sono circa un'ottantina i musulmani rinchiusi nelle carceri italiane per reati di terrorismo. 17 di questi si trovano nel carcere di Macomer, in Sardegna. Insultano per provocare lo scontro, dandoci dei fascisti, dei razzisti, dei servi degli americani. E quando sono morti 6 soldati italiani in un attentato a Kabul nel settembre scorso, si sono messi a esultare urlando «Allahu Akbar, Dio è grande». Scuote la testa Giampiero Longu, comandante della polizia penitenziaria nel carcere di Macomer, in mezzo alla Sardegna. Si riferisce ai detenuti della sezione di alta sicurezza 2, dove sono isolati 17 islamici duri e puri coinvolti nel terrorismo internazionale. Fra questi c'è Adel Ben Mabrouk, uno dei 3 tunisini ex prigionieri di Guantanamo che la Casa Bianca ha spedito in Italia. Nelle carceri italiane sono 9.742 gli ospiti che si dichiarano musulmani, su circa 24.000 stranieri. In gran parte si tratta di delinquenti comuni che si aggrappano alla fede per sopravvivere dietro le sbarre, ma il pericolo del radicalismo è sempre in agguato. Per questo motivo, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha deciso di concentrare l'ottantina di detenuti islamici con reati di terrorismo in 4 carceri: Macomer, Asti, Benevento e Rossano. Nel carcere di Macomer, l'ultima aggressione a una guardia è del 14 agosto. La sezione è un corridoio di piccole celle con le porte blindate. Un agente apre uno spioncino e un detenuto legato ad Al-Qaeda guarda in cagnesco. Nel mese del Ramadan, il digiuno islamico terminato il 10 settembre, gli accusati di terrorismo hanno pregato nella zona d'aria, un rettangolo di cemento armato. Questa sezione è un carcere dentro il carcere. L'isolamento fa solo aumentare l'odio, sostiene Jamal Husni, un marocchino classe 1983 condannato a 7 anni perché faceva parte di una cellula che reclutava volontari per la Guerra Santa nel nord dell'Iraq. Sbarbato, occhialini da intellettuale, si dice innocente. Dopo l'11 settembre gli islamici sono sotto tiro ovunque. Non sono un terrorista, come i fratelli in galera con me. Jamal dovrebbe essere già libero perché ha finito di scontare la pena, ma una volta fuori verrebbe espulso in Marocco, dove teme maltrattamenti e torture. «Voglio solo tornare a una vita normale», sostiene Husni, «e finire il liceo scientifico». Oltre all'ex di Guantanamo, è ospite a Macomer il convertito francese Raphaël Gendron, arrestato a Bari l'11 novembre 2008 assieme all'imam Bassam Ayachi. Gendron ha assunto il nome islamico Abdel Raouf. Barba e capelli neri lunghi, sembra un Cristo musulmano che guida la preghiera nel torrido agosto sardo. Quando la pattuglia di integralisti arrivò nel maggio 2009, la tensione rimase alta per un bel po'. I detenuti per terrorismo facevano pubblicare lettere di protesta su siti antagonisti in cui parlavano di Macomer come di una Guantanamo sarda. Lo stesso Husni ammette di essere in contatto per posta con i fratelli nelle altre carceri e con le associazioni islamiche che si occupano dei detenuti musulmani in Francia e Gran Bretagna. Ora la situazione è migliorata. Si è instaurato un dialogo, ma ogni tanto scoppia una scintilla come il giorno prima di Ferragosto. Il 15 doveva venire un parlamentare del PD in visita, poi rimandata. Uno dei detenuti avrebbe dato un pugno a un agente e la reazione della polizia penitenziaria ha scatenato la protesta. Fra giornali bruciati, Allah è grande e battitura delle sbarre, la sezione è diventata incandescente. Solo l'intervento negoziale del comandante Longu ha evitato il peggio, ma chi sgarra viene trasferito e sottoposto a un regime ancora più duro. Cerchiamo di concedere il possibile, come la saletta di svago trasformata in luogo di preghiera. Stiamo acquistando attrezzi da palestra, che ci hanno richiesto i detenuti per tenersi in forma. La tattica è di gettare acqua sul fuoco, ma nessuno di questi signori è dentro per reati di opinione, spiega Giovanni Monteverdi, direttore di Macomer. Nelle carceri ha vissuto fin dagli anni di piombo. Il loro radicalismo mi ricorda per certi aspetti le Brigate Rosse. I detenuti per terrorismo non permettono agli agenti di toccare il Corano, che ognuno possiede. Si sospetta che il libro sacro dell'Islam possa essere usato per nascondere pizzini. Una volta hanno inutilmente protestato per la croce al collo di un agente. Alcuni non si fanno visitare dalle donne e volevano che le infermiere indossassero il velo, racconta Massimo D'Agostino, responsabile medico. Secondo l'arabista Sergio Bianchi, si tratta di una polveriera. Ci vogliono corsi di formazione sull'Islam per la polizia penitenziaria, imam nelle carceri, come i cappellani cristiani, e mediatori culturali preparati. Fondatore dell'ONG Agenfor, ha scritto «La radicalizzazione jihadista nelle istituzioni penitenziarie europee», un rapporto di 364 pagine per la Commissione europea. La stragrande maggioranza di islamici nelle carceri, compresa Macomer, è composta da detenuti comuni. Più numerosi sono i marocchini, 5.249, seguiti da tunisini, 3.167, e algerini, 951, anche se non tutti si sono espressamente dichiarati musulmani. Nel penale di Padova sono oltre 150 quelli che seguono rigorosamente il Ramadan. L'amministrazione fornisce carne halal, secondo le regole islamiche. Non solo. In occasione del mese di digiuno, un'aula scolastica è stata trasformata in temporanea moschea. La fede è una speranza, un appiglio a cui ci aggrappiamo. Invochiamo Allah per trovare la serenità e superare la dura prova del carcere, afferma Enaji Abderrahman, un marocchino di 34 anni. In galera per omicidio è un imam fai da te perché conosce meglio degli altri il Corano. La jihad in carcere è una battaglia dentro te stesso, per migliorare e non cadere in tentazione, osserva Abderrahman nella sua tunica color crema dopo la preghiera con i compagni di cella. Sulla guerra in Iraq, Afghanistan e Palestina concordano che è un diritto dei musulmani difendersi dagli occupanti. Però Ibrahim Igal, un egiziano, condanna con fermezza i kamikaze. Il Corano proibisce il suicidio. Piuttosto che ammazzare civili, vadano a combattere a viso aperto con il Kalashnikov in pugno. Altri sostengono che a Guantanamo ci sono anche innocenti. Cinzia Sattin, educatrice con gli occhi azzurri, ascolta le storie più terribili. AW, 25 anni, iracheno, dentro per reati legati alla droga, è arrivato da poco. Mi ha raccontato della sua casa distrutta da un terrorista suicida. Sotto le macerie ha perso tutta la famiglia, informa Sattin. Appena chiudeva gli occhi mi diceva che si vedeva anche lui imbottito di tritolo e avrebbe voluto farsi saltare in aria. La casa circondariale di Rimini è un porto di mare con 1900 entrate e uscite l'anno. Per oltre metà i detenuti sono stranieri, 68 sono islamici osservanti. Siamo molto attenti a rispettare tutto l'anno il vito islamico e alla fine del Ramadan, il 10 settembre, c'è stata una festa con dolci e datteri, sottolinea Maria Benassi, direttrice con 28 anni di servizio. Gli facciamo una terapia femminile, scherza, ma non troppo. Le infermiere sono tutte donne, come le insegnanti per i corsi scolastici. Qui Jalal Trabelsi, tunisino, dice di cercare rifugio nella preghiera e vive in cella con Besmir Metuellai, un albanese che ha il fratello imam, ma non si genuflette verso la Mecca. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Fausto Biloslavo La mezzaluna a scacchi, da Panorama del 23 settembre. Letture di Radio 24. Da molti anni, le ricerche scientifiche che studiano le differenze tra il cervello dell'uomo e quello della donna producono risultati spesso contrastanti tra loro. Una recente ricerca evidenzia come le donne avrebbero una maggiore capacità di multitasking. Ma un libro smonta queste tesi e nega che esistano differenze tra i due cervelli. Le ragazze si arrendano. I maschietti hanno un cervello del 9% più grande del loro. Beh, potrebbero giustamente replicare le signorine, dipende dall'uso che ne fanno. Ma che? Gli uomini hanno comunque una quantità di materia grigia 6,5 volte più grande di quella delle donne. 2-0? Fosse così semplice. La sfida sul cervello tra uomini e donne è la partita più pericolosa che gli scienziati di tutto il mondo stanno giocando da anni. L'ultima bordata è partita in questi giorni. Le delusioni del genere si chiama il libro con cui Cordelia Fine spara a zero contro le teorie che enfatizzano una differenza sostanziale tra i due cervelli. un atto d'accusa che mette nel mirino le conclusioni di quella corrente rappresentata soprattutto da Luann Brizendine, la dottoressa che pure si dichiara spassionatamente femminista e che ha scritto due libri, Il cervello maschile e Il cervello femminile, schizzati in testa alle classifiche con tanto di polemiche sul politicamente corretto. Esperta contro esperta, una battaglia tra donne? È proprio contro la generalizzazione dei sessi che si batte Le delusioni del genere. Prendete la fatica che il New York Post ha fatto per evidenziare almeno 5-6 punti di differenza tra uomini e donne. I risultati? Le differenze si giocano soprattutto sul ruolo dell'amigdala. È il centro del cervello in cui vengono prese le decisioni di agire. E siccome negli uomini è più grande, il sesso cosiddetto forte reagirebbe con più impulsività e violenza di fronte agli eventi insoliti. E ancora, se è vero che gli uomini, per esempio, hanno più materia grigia, il che spiegherebbe perché eccellono, per esempio, nella matematica, è pur vero che le donne hanno più materia bianca, che sarebbe quella che permette di connettere le diverse parti del cervello, esercitando così la funzione oggi comunemente detta multitasking, che poi sarebbe quel miracolo che da sempre ammiriamo in tante mamme, la capacità di badare a più cose nello stesso tempo, dai pianti del bebè allo sbuffo del caffè. Non basta. Le donne sorpasserebbero gli uomini anche nell'ultimo campo di osservazione della neurologia, quei neuroni specchio che ci permettono di sentire gli altri, rivivere le emozioni, agire insomma empaticamente, risolvendo così anche la sempiterna questione della sensibilità femminile. Problemino mica da poco per tanti maschietti. Sarà vero? Le differenze, dice ora l'eretica Cordelia, magari esistono, ma sono culturali. E più si creano aspettative su certi comportamenti maschili, la capacità di reazione fisica, e femminili, la capacità di prendere posizioni più ponderate, e più noi tutti, uomini e donne, ci sentiamo portati a comportarci secondo lo schema. Malgrado tantissime scoperte recenti, quest'organo rimane per la maggior parte sconosciuto, dice un'autorità come Anne Fausto Sterling, un'altra donna, della Brown University del Rhode Island. E proprio per il mistero che lo circonda, il cervello rappresenta il mezzo ideale su cui proiettare tutte le nostre ipotesi riguardo al ruolo delle differenze di genere. Sessismo? Cordelia, Anne e le altre non hanno dubbi. Neurosessismo. In fondo, questo sì, un vecchissimo riflesso del cervello. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Angelo Acquaro, Maschi e femmine divisi dal cervello. La sfida si gioca sul multitasking, da Repubblica del 21 settembre. Quali sono le più frequenti ragioni per le quali uomini e donne si mettono a litigare? Lo spiega John Gray, psicosessuologo e terapeuta americano, nel suo bestseller Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere. Di solito gli uomini e le donne litigano per denaro, sesso, decisioni da prendere, educazione dei figli e responsabilità familiari. Tuttavia le discussioni si trasformano in litigi dolorosi per un solo motivo: non ci sentiamo amati. Il dolore nasce dal non sentirsi amati e quando una persona prova dolore ha molte difficoltà a trasmettere messaggi affettuosi. Poiché le donne non vengono da Marte, non capiscono distinto ciò di cui un uomo ha bisogno per affrontare con successo le divergenze. Idee, sentimenti e desideri divergenti sono ostacoli ardui per un uomo. Più si sente vicino a una donna, più gli risulta difficile affrontarli con successo. Quando si accorge che a lei non piace qualcosa che ha fatto, tende a sentirsi offeso e a pensare che in realtà ciò che a lei non piace è lui stesso. Un uomo affronta meglio le divergenze e i disaccordi quando i suoi bisogni emotivi sono soddisfatti. Se privato dell'amore di cui ha bisogno, invece, si mette sulla difensiva e il suo lato oscuro comincia a emergere. Di istinto, estrae la spada. È probabile che in apparenza a lui sembri litigare per la questione messa sul tappeto, denaro, responsabilità e così via, ma il vero motivo per cui ha sguainato la spada è che non si sente amato. Quando un uomo litiga per i soldi, i figli o per qualunque altra cosa, è probabile che nel suo intimo le autentiche ragioni di litigio siano invece le seguenti. Ha bisogno di sentirsi accettato per quello che è. Invece, ha l'impressione che lei stia cercando di migliorarlo. Ha bisogno di sentirsi ammirato, mentre viene sminuito. Ha bisogno di sentirsi incoraggiato. Invece, ha voglia di rinunciare. Ha bisogno di sentirsi apprezzato, ma si sente biasimato, misconosciuto e impotente. Ha bisogno che lei gli dia fiducia e lo apprezzi per il contributo che dà alla sua insicurezza. Invece, si sente responsabile per le sue ansie. Ha bisogno di essere accettato per quello che è. Al contrario, si sente controllato o costretto a parlare e di conseguenza non trova niente da dire. Prova la sensazione che non riuscirà mai a soddisfarla. Ha bisogno di sentirsi accettato e considerato degno di fiducia, mentre si sente respinto e immeritevole di perdono. Ha bisogno di sentirsi approvato e accettato, invece si sente un fallito. Anche le donne contribuiscono a scatenare litigi dolorosi, ma per ragioni diverse. Esteriormente può sembrare che litighino per i soldi, per le responsabilità o per qualunque altra cosa, ma nel loro intimo se oppongono resistenza al partner è per una o più di queste ragioni. Ha bisogno di sentirsi considerata e importante, invece si sente giudicata e ignorata. Ha bisogno di sentirsi rispettata e assistita, mentre si sente trascurata e all'ultimo posto della lista di priorità di lui. Ha bisogno che lui capisca perché è turbata e la rassicuri del suo amore e del fatto che non ha alcuna necessità di essere perfetta, invece ha paura di essere se stessa. Ha bisogno di sentirsi compresa e rispettata, al contrario si sente inascoltata, tiranneggiata e svilita. Ha bisogno di sentire che a lui stanno a cuore i suoi sentimenti e che rispetta il suo bisogno di essere informata. Invece si sente non rispettata e non apprezzata. Ha bisogno di sentirsi compresa e valutata. Invece si sente abbandonata, non amata e offesa. Ha bisogno di sentirsi rispettata e trattata con tenerezza, soprattutto quando illustra i propri stati d'animo. Invece si sente indifesa e insicura. Sebbene questi sentimenti e bisogni dolorosi siano perfettamente validi, di solito non vengono affrontati né comunicati in modo diretto. Si alimentano invece nell'intimo e finiscono per esplodere nel corso di una lite. A volte vengono esposti verbalmente in modo esplicito, ma è più facile che siano mostrati attraverso l'espressione del viso, l'atteggiamento del corpo e il tono della voce. Avete ascoltato la lettura di alcuni brani dal libro di John Gray, Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere. Rizzoli Editore, 284 pagine, 15 euro.